giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Il mistero di Seveso e il bel René. Ci sono catastrofi che non fanno rumore, non spargono sangue, non spezzano i vetri, neppure innalzano macerie. Sono le ore 12, la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire l'operazione di bonifica. Tutte le persone dovranno essere munite di certificato sanitario. Sì, non dovevano metterla lì. Sono fatte dalla mia casa e non tornerò più. Seveso, alle porte di Milano. Sabato 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dall'ICMESA, una fabbrica chimica del gruppo Givaudan Hoffmann La Roche. Si trova tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B dove si produce triclorofenolo, un composto chimico che serve per la produzione di cosmetici e disinfettanti ospedalieri. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Gli operai fuggono soffocati dal fumo acre. Uno di loro, Carlo Galante, entra nella zona del reattore 5 minuti dopo lo scoppio, apre la valvola di raffreddamento ad acqua. Una nuvola enorme incombe sopra Seveso e una leggera brezza la trascina in tutto il nord Italia. Se la ricorda bene quella giornata di luglio, Stefania Senno, il cui volto deturpato dalla cloracne divenne poi il simbolo di una tragedia. Mia madre quel giorno ogni tanto dice che si era accorta di una nube, però insomma lei sa benissimo che nelle zone industriali spesso e volentieri escono delle nubi dalle fabbriche e non ci ha dato tanto peso, anche se poi nell'aria c'era un odore acre. Mia madre si era preoccupata vedendo che mia sorella cominciava ad avere dei brufoli sul viso e lei ha subito pensato fosse un morbillo o varicella. Il dottore ci ha detto che non era né varicella né morbillo, ma era un'ustione chimica, era qualcosa di chimico che ci aveva provocato queste eruzioni. Anche la famiglia Auletta di Seveso vede da vicino la nube provenire dalla ciminiera dell'ICMESA. E la nube si è vista, erano verso le 12:20, 12:30. Un odore che era micidiale. Qui, dove è passata la nuvola lì, gli uccellini cadevano per terra stecchiti. E io, essendo trasportatore, dove andare in giro per le ditte, mi fermava la polizia e i vigili. Come vedere i documenti che erano di Seveso, scappavano. Dice vai, vai, vai via, vai via, vai via. Nei giorni successivi molti sanno che cos'è accaduto nel reattore B dell'ICMESA. Le autorità, le amministrazioni pubbliche, le forze dell'ordine e il governo. Ma la comunicazione ai cittadini giunge giorni dopo. Sono quelli che chiamiamo i giorni del silenzio. Sabato 17 luglio 1976. Giungono i referti delle analisi e arriva la conferma. Si è formata una quantità rilevante di 2,3,7,8 tetracloro parabenzodiossina, TCDD, la più benefica tra le 72 diossine presenti nella chimica. È una sostanza che danneggia tessuti grassi, fegato, reni, sistema cardiocircolatorio e nervoso centrale. La TCDD è cancerogena e ha proprietà mutagene. Interviene cioè sul corredo cromosomico degli individui e sui feti, diminuisce la fertilità e la capacità riproduttiva, produce difetti alla nascita e danni embrionali e influisce sul patrimonio immunitario di tutti gli individui. Domenica 18 luglio 1976 ai responsabili dell'ICMESA viene contestata l'ipotesi di inquinamento da diossina. Viene ordinata la chiusura dei reparti produttivi. Vengono messi i sigilli alle porte di accesso del reparto B e il direttore del reparto chimico dell'ICMESA ammette la presenza di diossina. Il sindaco di Seveso ordina alla popolazione di non ingerire prodotti di origine animale provenienti dalla zona infestata. Mercoledì 21 luglio 1976 il pretore di Desio emette il mandato provvisorio di arresto a carico di Erwig von Zwell, responsabile tecnico dell'ICMESA, e Paolo Paoletti, direttore di produzione. Per loro l'imputazione è disastro colposo. A 11 giorni dal disastro viene costituita una commissione di esperti. I comuni di Cesano Maderno e Desio adottano provvedimenti analoghi a quelli di Seveso e Meda. La Regione Lombardia emette il primo comunicato ufficiale e decide il blocco totale delle CMESA, ordina disinfezioni e disinfestazioni. La situazione però precipita, i giornalisti vogliono sapere, vogliono informare l'opinione pubblica. E intanto a Seveso muoiono gli animali, alcuni bambini vengono ricoverati per cloracne, una malattia collegata all'esposizione di diossina, proprio come Stefania Senno. Tutte le mattine mi svegliavo e pensavo, no Stefania tranquilla, è stato un brutto sogno. A volte prima di alzarmi dal letto mi toccavo il viso, mi accorgevo invece che era realtà, altre volte aspettavo di arrivare davanti allo specchio per vedere che invece era tutto vero e allora lì mi sentivo morire, non esagero, veramente morire. Il 10 luglio del 1976, io avevo appena compiuto 2 anni e non ricordo niente di quel giorno, ho qualche flash come i prelievi del sangue che mi facevano in ospedale, le visite che per me erano torture, visto che con me e mia sorella ormai non avevano più pazienza. Ovviamente noi soffrivamo fisicamente e loro avevano tanta fretta di avere risultati, di farci le visite, di analizzarci. Venerdì 23 luglio 1976, ECMESA e Givaudan suggeriscono alle autorità italiane di far evacuare la zona. Problemi si registrano anche per quanti abitano nei paesi limitrofi a Seveso e Meda. Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta ECMESA. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali. Passano gli anni e inizia la bonifica. Bisogna smaltire la diossina contenuta in alcuni fusti. L'operazione è guidata da Luigi Noè, vicepresidente dell'Enea, responsabile dell'ufficio speciale di Seveso. Oltre a lui si muove nell'ombra uno strano personaggio, Bernard Faringot, francese, uomo legato ai servizi segreti. È il 10 settembre 1982, le 6 del mattino. All'ECMESA arriva un camion, operai in tuta bianca e mascherine protettive caricano 41 fusti. Il contenuto è descritto nelle bolle di accompagnamento, 150 tonnellate di residui solidi e scarti industriali contenenti prodotti aromatici clorurati come TCDD, TCDF, TCB provenienti da Meda. Luigi Noè guida la spedizione verso la frontiera di Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio l'operazione è conclusa. I fusti sono già nelle mani di Faringot e pochi giorni dopo Faringot comunica di aver sistemato i fusti in un magazzino in Francia e intende trasferirli in una discarica controllata in Europa. 19 maggio 1983, la Hoffmann La Roche mostra i fusti ad Anquicourt-l'Essard, vicino a Saint-Quentin, in Francia. 2 anni dopo, a Basilea, la Hoffmann La Roche smaltisce 41 fusti. Ma c'è qualcosa di strano. Al momento della partenza, i fusti hanno un diametro di 60 cm e pesano complessivamente 6 tonnellate e mezzo. Faringot li fa trovare a Basilea e sono più piccoli e pesanti. Il loro diametro misura 56 e 5 cm, 3 cm e mezzo in meno. Pesano però 20 quintali in più. Il viaggio dei 41 fusti resta un mistero irrisolto, ancora oggi. Con ogni probabilità, però, Faringot avrebbe realizzato 2 spedizioni. I fusti finiti in Francia, poi smaltiti, non conterrebbero i residui del reattore. Quelli veri raggiungerebbero la discarica di Schönberg e probabilmente quella italiana di Pitelli, sopra La Spezia. A quasi 30 anni dall'incidente parla Jorg Sandvedt. Nel 1976 era direttore di produzione della Givaudan, la società svizzera che controlla l'ECMESA di Seveso. Sandvedt venne condannato dai tribunali per disastro colposo. Je ne veux pas me disculper. Non voglio discolparmi. Ci sono altri che tacciono da decenni. Io certamente no. Oggi, quando vedo queste immagini, sto ancora male. Quando vedo i bambini, le persone, quando vedo chi ha veramente sofferto. Non sapevo che il reattore venisse riscaldato a tali temperature. Nessuno lo sapeva. L'abbiamo ricevuto già finito da Micro. Non ho messo in dubbio la costruzione dell'apparecchio. Non ho controllato ogni singola condotta e ogni singola parte di quel reattore. Lo abbiamo preso così com'era. Probabilmente è stata una delle mie fesserie. I miei dubbi crebbero in quegli 8 giorni in cui la Roche decise di tacere. E fu il panico. Un caos assolutamente incredibile. Nella settimana che seguì l'incidente ci fu il tentativo di addossare la responsabilità di quello che era successo alla fabbrica italiana e non alle società svizzere. Una settimana più tardi andai sul posto personalmente e ricevetti l'ordine telefonico di non dire nulla. Ma era impossibile non dire niente, perché i medici erano costretti a trattare le vittime senza sapere le cause delle malattie, dell'eczema. Non sapevano niente. Avevamo un'idea dell'incidente. Per Hork Sambet, le colpe di ciò che è accaduto a Seveso nel 76 sono da distribuirsi praticamente a tutti i livelli. Ancora oggi si crede che sia stata la ricerca del profitto ad ogni costo a spingere la Roche a comportarsi in quel modo. Ma non è così. È stato il caos, è stato il panico e nient'altro. Parte dall'alto. Passa da me che ho ricevuto un reattore chimico senza controllare se funzionava a dovere. Mi hanno nascosto qualcosa o non mi hanno nascosto nulla? Ancora oggi non lo so. Non si dice agli operai di non fermare il reattore quando è ancora caldo e quando bisogna ancora terminare la reazione. E l'operaio guarda l'orologio e dice: è sabato pomeriggio, chiudo tutto e me ne vado perché comincia il weekend. È una catena di idiozie e di malfunzionamenti che va dalla direzione fino all'ultimo operaio. E Hork Sambet è anche il protagonista di un film girato dalla regista elvetica Sabine Gisiger, presentato al Festival Cinematografico di Locarno nella sezione Settimana della Critica. Dall'inizio, dalle prime ricerche, dai primi incontri con Hork Sambet, che è il protagonista del film, c'erano due cose che mi hanno toccato molto. Da un lato il destino personale di Hork Sambet, che ha voluto fare una vita buona, giusta, e non è riuscito nonostante tutto, e che non ha avuto ai tempi il coraggio di difendersi, e io credo che si capisca molto bene perché non è riuscito. E non è tanto facile essere un eroe. Lui lo spiega molto sinceramente e molto bene, perché ci ha messo tanti anni, quasi 30 adesso, per dire la verità. Allora c'era l'interesse per questo destino personale, come ho detto, e poi naturalmente anche un grande interesse di avere questa visione dietro le quinte, di sapere delle verità che normalmente non si viene mai a sapere, che sono le verità dietro le porte chiuse di una multinazionale. Dal 10 luglio 1976 i cittadini di Seveso e Meda si sono riuniti in un comitato. Hanno proseguito una battaglia legale contro la Givaudan e nel 2002 la Corte di Cassazione ha dato ragione agli abitanti nella zona. In questa sentenza vi è scritto: in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica.